stretta di mano, un sorriso distratto, ah, con una sigaretta che ti pesa in bocca, come un tetto d'amianto, ah, ah. A volte guardo fisso una fotografia, era bello quando tutti stavano bene, era bella MSN quando ti amavo di bene. Passano le notti d'inverno e le aurore boreali, forse anche i supereroi sognano di essere normali. Siamo sulla stessa barca in un mare di gin tonic e balliamo un lento mentre il mondo balla la tectonic. E se ti dicessi che ho incollato il tuo viso sui miei magazine porno, ah, chiamami pure stronzo, ma ci credo ancora in un tuo ritorno, ah, ah. Ho fatto a botte con la mia malinconia e sono riuscito a chiuderla in una canzone per vederti ridere ancora una volta. Le ho dato questo nome. Passano le notti d'inverno e le aurore boreali, forse anche i supereroi sognano di essere normali. Siamo sulla stessa barca in un mare di gin tonic e balliamo un lento mentre il mondo balla la tectonic. Siamo sulla stessa barca.